Letture di Radio 24. Il tuo gatto nero mi ha provocato una serie di sfortune e guai. Adesso ti denuncio. E così ha fatto un 54enne di Manduria, dopo che il gatto nero del vicino gli aveva più volte attraversato la strada, scatenando, a suo dire, la mala sorte del felino. Al superstizioso non c'è verso di fargli attraversare la strada dopo che è passato un gatto nero. Il gatto nero, per molti, rappresenta ancora la pantera in miniatura che porta sfortuna. Fa sorridere la storia di un uomo di 54 anni di Manduria che, dopo alcune coincidenze sfortunate, ha accusato come unico responsabile il micio dal pelo nero corvino del vicino di casa. «Il tuo gatto nero mi ha provocato una serie di sfortune e guai, adesso ti denuncio!» Ha detto senza tanti giri di parole l'uomo che attribuisce al gatto poteri negativi, perché gli incidenti, ha spiegato, sarebbero stati provocati dalla mala sorte del felino, che in più di un'occasione gli avrebbe tagliato la strada. Domenica scorsa l'uomo, dopo aver visto il gatto attraversare la strada, sarebbe inciampato e caduto, sbucciandosi un ginocchio ed entrambi i gomiti. Dopodiché, tra l'uomo e il proprietario del gatto, è esploso un acceso diverbio. Ma l'episodio di domenica scorsa sarebbe soltanto l'ultimo di una lunga serie. Nel giro degli ultimi 5 mesi, denuncia l'uomo, la vista del gatto nero gli avrebbe provocato molta sfortuna. Un incidente stradale, la rottura di un vetro, la perdita del portafogli, la macchia su un vestito nuovo. Convincere una persona superstiziosa che quanto accaduto non può essere colpa di un gatto, anche se nero, è quanto di più difficile ci sia al mondo. Alcune credenze sono difficili da cambiare. Ora al povero gattino che ha avuto la sventura di nascere di colore scuro, gli toccherà presentarsi in tribunale con il suo avvocato a quattro zampe. Scherzi a parte. In difesa del felino nero, che di solito ha degli occhi meravigliosi color giallo oro, mi piace ricordare che era particolarmente venerato in Egitto, essendo il nero il colore della fecondità, ma era anche colui che allontanava il male. Molto amato anche in Asia. In India, per esempio, 5.000 anni fa, la gatta nera aveva il compito di purificare il mondo notturno. In Persia i mici neri sono creature benefiche e in Birmania sono a guardia del tempio. Non lo sanno di certo quelli che nella notte di Halloween rapiscono e sacrificano per riti o per superstizione i gatti neri, i quali non sanno neanche che per la religione induista chiunque abbia ucciso un gatto deve ritirarsi nella foresta e dedicarsi agli animali sino a quando non si sarà purificato della colpa. E ancora, per avere fortuna letteraria, la scrittrice Alberghini e presidente dell'Accademia dei Gatti Magici suggerisce di prenderne in casa uno nero. Lei ne ha 5. Perché il gatto nero è un demone benefico, un angelo con qualità magiche, assegnato a intellettuali e artisti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il gatto nero portato in tribunale dal vicino di casa superstizioso» di Daniela Mastromattei, da Libero di mercoledì 11 maggio. Letture di Radio 24. Nel mondo sono aperti almeno una trentina di conflitti che globalmente costano vite umane, circa 1.346.550 e 1.700 miliardi di dollari. Un conto salato, quello delle guerre, che troppo spesso viene sottovalutato e deciso con leggerezza. In genere, le guerre esplodono d'un tratto e per qualche tempo finiscono sotto i riflettori del mondo. Poi la luce si spegne e scompaiono dalla ribalta per mesi, a volte anni. Ci si scorda che in un paese si sta combattendo, ma la contabilità del conflitto avanza inesorabile. Il numero dei morti, la conta dei feriti, ma anche i costi vivi e i danni all'economia. Tutto cresce col tempo. Il Sole 24 Ore ha provato a riaccendere le luci sugli scontri in corso, esaminandone la tragica contabilità, ottenendo risultati eclatanti. In tutto, le persone che hanno perso la vita dall'avvio dei conflitti in corso sono oltre 1,6 milioni. Elaborazione su dati Peace Reporter, e i costi diretti raggiungono la cifra record di circa 1.700 miliardi di dollari. Tanto per avere un ordine di grandezza, si possono confrontare i costi di altri conflitti passati. Secondo l'elaborazione del Centro per gli Studi Strategici e Internazionali americano, la Grande Guerra è costata agli Stati Uniti 253 miliardi di dollari, quella del Vietnam 686 miliardi, la seconda guerra mondiale oltre 4.100 miliardi. Ciò significa che nella storia contemporanea, già ora i conflitti in Iraq e Afghanistan balzano rispettivamente al secondo e al quarto posto per i costi sostenuti, considerando anche l'apporto degli alleati degli Stati Uniti, 900 miliardi di dollari nel primo caso e 550 miliardi nel secondo. Anche se si tratta di cifre enormi, il valore reale dei danni potrebbe essere ancora più elevato, e di molto. Le stime comprendono la parte delle spese militari sostenute dall'inizio del conflitto dai singoli paesi, imputabile direttamente alla guerra. In qualche caso, il sostegno dato da paesi stranieri e poco altro. È evidente però che esiste un grande cono d'ombra, non calcolabile con precisione, che nasconde valori ingenti. Un rapporto di Oxfam, una ONG britannica di qualche tempo fa, ad esempio, ha provato a valutare gli effetti sullo sviluppo economico dei paesi africani coinvolti negli scontri. Risultato? Ogni anno i conflitti armati bloccherebbero la crescita del PIL in media del 15% nei paesi coinvolti. Ci sono poi i tanti costi classificati come indiretti, ma almeno in parte imputabili alle guerre. Cercando di valutare gli effetti del conflitto iracheno sul budget statale e l'economia statunitense, Joseph Stiglitz e Linda Bilmes hanno sostenuto sul Washington Post che i costi superano certamente i 3.000 miliardi di dollari. Per valutare questa cifra, hanno valutato tra l'altro di quanto sarebbe salito il prezzo del petrolio senza questa guerra, quanto ha pesato sul debito pubblico statunitense e quanto ha influito sull'ultima crisi economico-finanziaria. In ogni caso, anche se le guerre in Iraq e Afghanistan pesano moltissimo nella valutazione globale dei conflitti in corso, sia per numero di vittime, sia per costi economici, non si possono tralasciare altre guerre, in alcuni casi assai onerose, come quella in Colombia, tra il governo centrale e i guerriglieri di ispirazione marxista, che dal 1964 ha causato 300.000 vittime e pesato sulle casse del paese per oltre 35 miliardi di dollari, o come i continui scontri nel Darfur, dove la lotta fra i membri del National Redemption Front e il regime del presidente al-Bashir e le milizie arabe dei Janjaweed ha causato 300.000 vittime dal 2003 e danni per almeno 3 miliardi. Oppure, ancora, la guerriglia che coinvolge i narcotrafficanti messicani, che solo nel 2010 ha ucciso 12.500 persone, più che in Afghanistan, con un costo di circa 15 miliardi di dollari dal 2006. Tra le guerre più dispendiose va ricordata quella israelo-palestinese, costata oltre 7.000 vittime e 30 miliardi di dollari dall'inizio della seconda intifada, nel settembre 2000, e probabilmente molto di più considerando anche i ripetuti scontri dal 1948, quando nacque lo Stato ebraico. Un altro conflitto che ha divorato 45.000 morti e una montagna di denaro tra 30 e 40 miliardi di dollari è quello tra il governo turco e la minoranza indipendentista curda. La stima considera il periodo dal 1984 ad oggi, ma la tensione risale agli accordi di pace seguiti alla Grande Guerra, quando i curdi furono smembrati tra Turchia, Iraq, Iran e Siria. L'analisi dei dati relativi al conflitto in Kashmir richiede particolare attenzione. Se da un lato è vero che le risorse impiegate dal governo indiano dal 1989 ad oggi sono cospicue, circa 40 miliardi di dollari, è vero anche che le autorità indiane paiono allentare la morsa. Lo scorso gennaio, infatti, il sottosegretario agli interni, Gopal Krishna Pillai, ha annunciato il taglio del 25% delle truppe nella regione. Il Kashmir, va ricordato, è conteso tra India e Pakistan da oltre mezzo secolo e da più di una ventina d'anni è in preda a una ribellione indipendentista da New Delhi, costata quasi 70.000 vittime. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il conto salato delle guerre di Marco Ratti e Paolo Migliavacca da Il Sole 24 Ore di lunedì 9 maggio.